Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Per un'allerta terrorismo sono stati chiusi i consolati e ambasciata tedesca in Turchia nel giorno del Consiglio europeo sui migranti. L'esame dei capi di Stato e di Governo proprio l'accordo con Ankara sui profughi. Dopo Roma tocca a Torino, la Lega e adesso anche Fratelli d'Italia strappano con Berlusconi nella città della Mole. Ora si guarda ad altre città a partire da Milano. Dopo le 4.000 di ieri, altre 3.000 forme di grana padano sequestrate per il rischio che vi sia aflatossina, un agente potenzialmente cancerogeno sopra la norma. L'inchiesta potrebbe allargarsi. Parte questa sera lo sciopero dei sindacati di base, l'impatto soprattutto per ferrovie e trasporto locale, revocato ieri quello dei taxi. Lei italiana, lui marocchino, dopo il matrimonio la radicalizzazione e ora sarebbero in Siria, partiti dalla Brianza per combattere insieme all'ISIS. Arrivano i soldi per i premi di merito agli insegnanti, 200 milioni di euro, ma alcune scuole per protesta non istituiscono i comitati di valutazione per assegnarli. Fu scoperta nel 22, ci sono però voluti 100 anni sostanzialmente per scovare due camere segrete nella tomba del faraone Tutankhamon. L'annuncio è arrivato oggi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp ed effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere un'email. Dunque la nostra apertura è dedicata all'allarme terrorismo che è scattato oggi in Turchia per le sedi diplomatiche tedesche. Il tutto si incrocia ovviamente con il tema del Consiglio europeo che si va ad aprire oggi, un Consiglio europeo nel quale al centro ci sarà sicuramente il tema dei migranti. Iniziamo però da quello che succede a Istanbul e Ankara. L'ambasciata tedesca ad Ankara e il consolato tedesco ad Istanbul sono rimasti chiusi oggi per il timore di attacchi terroristici. A confermarlo lo stesso Ministero degli Esteri di Berlino, aggiungendo che per gli stessi motivi è stata chiusa anche la scuola tedesca ad Istanbul. Abbiamo avuto indicazioni concrete di un possibile attacco alle rappresentanze tedesche in Turchia, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Steinmeier. Le chiusure precauzionali sarebbero legate a una minaccia specifica e non è esclusa la chiusura di sedi diplomatiche di altri paesi. Già martedì l'ambasciata tedesca ad Ankara aveva messo in guardia i propri concittadini su possibili nuovi imminenti attentati nella capitale turca dopo quello che domenica ha provocato 37 vittime a una fermata d'autobus in pieno centro. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista curdo TAK, che l'ha definito un'azione di vendetta per le operazioni militari in corso da luglio nel sud-est a maggioranza curda del paese. Sempre di oggi anche la decisione del corrispondente dello Spiegel in Turchia, Aznain Kazim, di lasciare il paese a causa della pressione cui vengono sottoposti i giornalisti critici. La Turchia per mesi si è rifiutata di rinnovargli l'accredito stampa. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, la Turchia resta al centro del vertice europeo di oggi, un Consiglio europeo che toccherà prevalentemente il tema dei migranti, anche se ci saranno anche argomenti economici. L'obiettivo è arrivare quantomeno ad una ratifica dell'accordo appunto con Ankara, un accordo molto contestato. Tra poco andremo nel dettaglio di che cosa c'è scritto in questo accordo. Intanto facciamo il punto politico con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno Simone. Il Consiglio europeo si apre esattamente alle 16, i leader stanno già arrivando a Bruxelles, sul piatto, come dicevi anche tu, l'accordo che punta a riportare sotto controllo i flussi di migranti, l'obiettivo è chiudere la rotta dell'Egeo una volta stoppato il flusso verso la Grecia e riaprire entro dicembre le frontiere interne di Schengen. Si cerca una mediazione dopo le richieste di Ankara, che nello scorso vertice aveva chiesto 3 miliardi in più rispetto a quelli inizialmente promessi dall'Europa, la liberalizzazione di visti per i suoi cittadini, l'accelerazione dei negoziati per l'adesione all'Europa, ma l'Europa sembra disposta a concedere molto meno. Il presidente della Commissione Juncker lo ha già messo in chiaro: non è in questione l'adesione della Turchia, la Turchia non è matura per entrare nella UE, non lo sarà nemmeno nei prossimi 10 anni, ha detto, dichiarandosi però cautamente ottimista sull'accordo. Ci sarà comunque da lavorare, come sappiamo sono diverse le posizioni sulla questione migranti. Cipro minaccia il veto perché contraria appunto all'adesione turca, anche se poco fa il presidente del Parlamento Schulz ha detto di essere fiducioso che questo ostacolo possa essere superato. L'Ungheria e gli altri paesi balcanici sono contrari alla ripartizione tra i 28 dei profughi che saranno poi prelevati dalla Turchia. Diversi governi, tra cui quello italiano, sono invece perplessi sulla scelta di sorvolare in un certo senso sui diritti umani e concedere altri finanziamenti alla Turchia. Insomma, si preannuncia una nuova lunga notte per chiudere un testo da presentare entro domani al premier turco Davutoglu. Ricordiamo infatti che la prima sessione è dedicata alla situazione economica, all'attuazione delle riforme strutturali adottate dagli stati, e solo da questa sera si comincerà ad affrontare il nodo migranti. A te Simone. Grazie Alessandra Scapisi per questo aggiornamento. Dunque, sentiamo cosa prevederebbe questo accordo del quale si sta discutendo in queste ore. Un rifugiato siriano trasportato direttamente in Europa per ogni siriano sbarcato in Grecia che la Turchia accetterà di riprendersi. In sostanza è questo il grande scambio che i leader dell'Unione Europea tenteranno di concludere con la Turchia, ma è anche il punto più controverso per le organizzazioni umanitarie. Il 91% dei migranti arrivati in Grecia nei primi due mesi dell'anno provengono infatti dalla Siria, dall'Afghanistan e dall'Iraq. Per UNHCR devono avere il diritto di chiedere asilo nell'Unione se arrivano sul suo territorio. In cambio di tutto questo, l'Europa si impegna ad accelerare la liberalizzazione dei visti dei cittadini turchi. Questo, secondo i critici dell'accordo, potrebbe produrre una situazione paradossale. Profughi e richiedenti asilo, soprattutto siriani, verrebbero reinsidiati in Turchia e migranti economici turchi avrebbero la possibilità di accedere in Europa. Ankara, inoltre, chiede la riapertura immediata del processo di ammissione in Europa. La Turchia avanza poi una richiesta economica, ulteriori 3 miliardi di euro. Sull'intesa fra Europa e Turchia, Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, è apparso sostanzialmente tiepido. I am cautiously optimistic, but frankly speaking more cautious than optimistic. Sono cautamente ottimista, ha detto Tusk, ma francamente più cauto che ottimista. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di terrorismo in apertura e a proposito di terrorismo, più passano le ore, più emergono dettagli ed errori anche gravi commessi dalla polizia belga nel blitz dell'altro giorno. Si continuano a cercare in Belgio due uomini fuggiti al blitz di Bruxelles. La cronaca narra di un'operazione di polizia mal gestita con terroristi che fuggono dalla porta del retro e nessuno a fermarli. Dopo la conferenza stampa di ieri, in cui si raccontava dell'arresto di due presunti terroristi che però non avevano nulla a che fare con il blitz, ora si scopre che gli stessi sono stati rilasciati e non si tratta dei due fratelli El Bakroui, ma di due uomini della strada, uno con una gamba rotta fermato in ospedale. Insomma, parecchia confusione, per dirla come si direbbe in cronaca, gli inquirenti brancolano nel buio e si conferma il sospetto che poliziotti che hanno effettuato un controllo a Rue de Drie si siano imbattuti per caso nel covo, cioè si pensava fosse un ex covo abbandonato, ma nessuno si è evidentemente preso la briga di verificare che così non fosse. Insomma, molte le critiche che piovono sull'antiterrorismo belga oggi e che fanno aumentare la paura nei cittadini, tanto che il primo ministro belga ha rivolto un appello alla prudenza in merito alle informazioni che parlavano di un progetto per un attentato imminente. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla politica, iniziando da una vicenda che incrocia la cronaca giudiziaria e quella politica appunto, ossia che la Procura di Roma ha chiesto una condanna a 2 anni di reclusione per il senatore Denis Verdini nel processo che lo vede imputato per corruzione nella vicenda dell'appalto per la scuola Marescialli di Firenze. La richiesta è stata fatta dal pubblico ministero Ilaria Calò al termine di una requisitoria durata circa 2 ore. Vedremo come reagirà il mondo politico a tutto questo dopo l'appoggio dato da Verdini e dal suo gruppo al governo in più di un'occasione. Però veniamo alle cronache delle amministrative, intanto con il quadro nel centrodestra che si va sempre più scomponendo. Dopo lo strappo di Roma, tocca a Torino. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. La spaccatura del centrodestra ha un nome, quello di Matteo Salvini, che pensa da una radicalizzazione verso destra, un progetto che vada oltre le comunali. Il leader della Lega chiede a quello di Forza Italia, Silvio Berlusconi, di adeguarsi alle posizioni del Carroccio su migranti, sicurezza, economia. Ma l'ex cavaliere non ha intenzione di prendere ordini da Salvini, anzi voci di corridoio parlano di un Berlusconi furioso per quanto successo a Roma e a Torino. Intanto parte la campagna elettorale di Giorgia Meloni per il Campidoglio, che è intervenuta a 24 mattino. Sentiamo quanto ha detto Meloni. Spero che si possa ancora ricucire, cioè che siano gli altri a essere coerenti, cioè che si ritiri rispetto Bertolaso a quello che hanno sempre detto. Che Bertolaso possa fare un passo di lato, che Berlusconi capisca che la battaglia sulla leadership del centrodestra, della battaglia sulla leadership del centrodestra non frega niente a nessuno, a me proprio non me ne potrebbe fregare di meno. Per cui le impuntature per poter dire sono io che comando, forse a Salvini poi si perde, chi se ne frega, forse a Salvini. Ma Salvini è un problema suo, eventualmente di Salvini. Io mi chiamo Giorgia Meloni, sono romana, mi candido sindaco a Roma, sì, sì, e di questo vorrei parlare. La rottura sul romettorino di Salvini si ripercuote anche sulla Lega. Umberto Bossi, in un'intervista alla stampa, si infuria: bisogna mantenere la parola data se vuoi che ti rispettino, ma Salvini ormai sembra guardare ad un polo sempre più di destra e sempre meno di centro, lontano da quello che fu Forza Italia e anni luce da quello che fu il polo delle libertà. La questione sul tappeto rimane, ovvero se Salvini possa sfondare al sud e se possa essere sufficiente l'alleanza con Meloni per riuscirci. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Inizia questa sera uno sciopero dei sindacati di base che colpirà soprattutto il trasporto, sia ferroviario che locale. Sentiamo. Quella di domani rischia di essere una giornata difficile sul fronte del trasporto pubblico. È infatti in questo settore che potrebbero essere più forti i disagi per lo sciopero generale di tutti i servizi pubblici proclamato dai sindacati di base. A Roma, per decisione del prefetto, lo sciopero di bus e metro durerà solo 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. A Milano lo stop invece interesserà le linee di superficie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, mentre per la metropolitana sarà limitato alla fascia pomeridiana, cioè dalle 18 a fine servizio. Nel settore ferroviario, invece, la protesta inizierà stasera alle 21 e si concluderà alla stessa ora di domani. Le ferrovie assicurano che le frecce circoleranno regolarmente, mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9. Disagi sono in vista anche nel settore aereo, dove a scioperare domani saranno i dipendenti di British Airways e Mistral Air, la compagnia aerea di Poste Italiane che svolge attività di linea per conto di Alitalia. Nella capitale è stata invece cancellata, dopo un incontro con il governo, la manifestazione dei tassisti, che hanno anche sospeso lo sciopero proclamato a livello nazionale contro il servizio Uber. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo al calcio. Beh, la notizia del giorno è ovviamente l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. Ai quarti va il Bayern Monaco, che come ormai sapete ha battuto 4-2 i bianconeri, che pure erano andati in vantaggio per 2-0 all'Allianz Arena dopo appena mezz'ora. Poi la rimonta appunto del Bayern con 2-2 siglato da Müller al 90esimo e il successo ai tempi supplementari. I vertici del club torinese sono stati piuttosto critici con gli arbitri. L'arbitro Eriksson, reo di aver annullato per fuorigioco un gol regolare di Morata, ma Allegri nel dopogara Sky Sport respinge gli alibi e rilancia la corsa in campionato. È inutile stare a parlare dell'arbitro, io posso solo dire e fare complimenti alla squadra, c'è da migliorare ancora molto, però era un test importante per noi, perché con una squadra diciamo completamente nuova confrontarsi con una delle favorite della Champions e soprattutto vincere 2-0 alla fine del primo tempo a Monaco non era semplice. Dispiace, siamo molto amareggiati, ma da domani bisogna rimetterla da parte, perché domenica abbiamo il derby, poi abbiamo la sosta per recuperare un po' di infortunati. E stasera in campo la Lazio, ultima rappresentante italiana in Europa League. Nel ritorno degli ottavi biancocelesti ospitano lo Sparta Praga dopo l'1-1 ottenuto all'andata in Repubblica Ceca. Ovviamente tutto materiale buono per tutti i convocati a partire dalle 14, la nostra trasmissione sportiva. Parliamo adesso di un'eccezionale scoperta archeologica in Egitto, nella tomba di Tutankhamon, e le ricerche continuano. Sentiamo. Nella vita si sa, le sorprese non finiscono mai, ma ci si stupisce quando si scopre qualcosa di nuovo risalente a qualche migliaio di anni fa. Scoperto nel 1922, esplorato in ogni modo da decenni, la tomba di Tutankhamon ha ancora segreti. Due stanze sono state scoperte dietro la tomba, sui lati occidentale e settentrionale, con materiale organico e metallo. Lo ha annunciato il ministro per le antichità egiziano, Mamdouh El-Damati, in una conferenza stampa. Si tratta del risultato della scansione ai raggi X della tomba, compiuta il 26 e 27 novembre 2015. Ora però le ricerche proseguiranno, perché, ad esempio, non è stato risolto il giallo sull'eventuale sepoltura nella tomba della regina Nefertiti. Credo ci sia sepolto qualcuno di molto importante, ma non penso sia Nefertiti, ha detto comunque il ministro, annunciando per il prossimo 31 marzo nuovi test radio digitali per determinare l'ampiezza della tomba e delle mura. I risultati verranno annunciati il 1 aprile. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andremo a sentire cosa succede sulle strade e poi abbiamo due storie da raccontarvi. La prima è una vicenda di cronaca alla quale abbiamo già accennato ieri, della quale abbiamo già parlato ieri, ma che si estende. Che cos'è? È la vicenda di queste forme di grana padano che sono state sequestrate. Ieri abbiamo detto che erano 4.000, sono salite a 7.000 perché fatte con del latte che conterrebbe aflatossina. Cos'è l'aflatossina? In sostanza un fungo, la faccio molto semplice, che è qualificato come cancerogeno quando è ovviamente ad alte concentrazioni. Ne parleremo col direttore generale del consorzio Grana Padano della zona di Brescia, perché è a Brescia che è avvenuto, nel bresciano che è avvenuto questo sequestro. E poi parleremo col sindaco di Gattinara, è un paese che si trova in provincia di Vercelli. La storia l'abbiamo pescata dalla stampa. E che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di fare questo: se volete accedere a una serie di servizi sociali anche pagando di meno, per esempio gli asili a costo zero e cose di questo genere, dovete anche rinunciare a beni di vario genere. Per esempio, se spendete 1500 euro all'anno per comprare le sigarette, beh io l'asilo gratis non ve lo do. La faccio molto semplice, ma è così, e ne parleremo con lui. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: per allerta terrorismo è stato chiuso il consolato a Istanbul, il consolato tedesco a Istanbul e l'ambasciata tedesca ad Ankara. Nel giorno del Consiglio europeo sui migranti, all'esame dei capi di Stato e di Governo, c'è proprio l'accordo con Ankara sui profughi. Gli Stati Uniti starebbero per qualificare come genocidio i crimini dell'ISIS contro cristiani, yazidi e sciiti, la notizia di pochi istanti fa. Dopo Roma tocca a Torino, la Lega strappa con Berlusconi anche nella città dell'amore. La spesa pubblica è stata tagliata per 25 miliardi di euro, è difficile andare oltre, lo ha detto poco fa il ministro del Tesoro Piercarlo Padoan, che dice ora lo sforzo deve essere sulla qualità dei meccanismi di spesa. Parte questa sera lo sciopero dei sindacati di base, l'impatto soprattutto per ferrovie e trasporto locale è stato revocato ieri quello dei taxi. Stefano Berni è il direttore generale del consorzio Grana Padano. Buongiorno Berni e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, ci parla da Desenzano del Garda, che è parte dell'epicentro di quello che sta succedendo in queste ore. Sono state sequestrate a questo punto 7.000 forme di grana padano. No, 7.000, no. Non 7.000. Sì, 7.000, ma il formaggio non è grana padano. Facciamo un po' di chiarezza. È grana. Grazie per la chiamata. Prego. Allora, il formaggio che è stato sottoposto a sequestro cautelativo, sì, non è grana padano, perché è un formaggio che sarebbe potuto diventare grana padano solo tra 4 mesi. Ah, ok, era pre-grana padano, era l'embrione del grana padano, come lo vogliamo chiamare. Del grana padano, esatto. Ed è formaggio che è tutto nei magazzini, non ce n'è un grammo in commercio, quindi di grana padano a rischio in distribuzione non in ce n'è. Momento, stato, in questo non momento ce non n'è. Ce n'è. Riassumiamo per gli ascoltatori che cosa è successo. C'è del latte. Latte, esatto, che è stato venduto ad una serie dei caseifici, del latte esatto, diluito perché conteneva delle alte quantità di aflatossine, che è esatto, una sorta di fungo che esatto, è giudicato cancerogeno da tutte le autorità mondiali in alte quantità, evidentemente. Perché alle sue quantità. Perché arriva nel latte? Arriva nel latte perché arriva nei mangimi, sostanzialmente, in particolare nel mais, si crea nel mais, le mucche lo mangiano e poi arriva nel latte. Questo per chiarire un po' i contorni della cosa. Perfetto. Ieri abbiamo raccolto la testimonianza dell'Ambrosi, sostanzialmente, che ha rifiutato questo latte. Alcuni altri evidentemente o non hanno fatto i dovuti controlli o hanno fatto un po' i furbi, mi sembra di capire. Ecco, esattamente, intanto la ringrazio per la chiarezza, finalmente. È stata la dimostrazione di come il sistema dei controlli sanitari in Italia funzioni, forse il primo al mondo. Ambrosi, avendo visto che c'era del latte che non era idoneo perché aveva una concentrazione di aflatossine superiore al limite consentito, che ricordo in Italia è 50 per ogni litro di latte, negli Stati Uniti è 500, Quindi sì. Ogni stato e questo ce l'ha detto anche Ambrosi ieri, esatto. Che peraltro è anche presidente di Assolatte. Sì. Allora, che cosa è successo? Ambrosi l'ha segnalato, come doveva farlo, all'autorità sanitaria, e quindi da lì sono partiti gli approfondimenti ed è stato verificato che invece in altri casi una parte di quel formaggio che sarebbe potuto diventare solo da luglio in poi grana padano era stato fatto con latte che aveva queste concentrazioni troppo alte, sì, per il sistema Italia. Io sono... Ecco, è vero anche, Berni, dall'altra parte, che se, come dire, per malauguratamente, no? Le persone che hanno venduto questo latte, degli allevatori, evidentemente o in malafede o che hanno effettuato male i controlli, avessero venduto a caseifici o un po' più modesti o non in grado di effettuare i controlli o in malafede anche loro, insomma, a questo punto noi questo grano tra 4 mesi sarebbe diventato grano, no, e sarebbe finito nelle nostre tavole, o no? No, perché i caseifici poi devono analizzare il latte di massa per legge e quindi verificare che il latte trasformato sia dentro i parametri. Quindi il reato, perché si tratta di reato penale, è stato commesso da quegli allevatori che consapevolmente, sapendo di aver latte fuori norma, l'hanno consegnato senza avvertire il caseificio e le autorità sanitarie, sì, come impone la legge. Sì. Quindi c'è un reato penale commesso da chi consapevolmente sapeva di avere il latte fuori e per non buttarlo via, perché la legge dice se tu hai il latte di stalla sopra i 50 lo devi buttare, lo devi smaltire, lo devi buttare via, non lo puoi consegnare. Questi allevatori hanno cercato di consegnarlo ugualmente, sì. Si tratta di una minimissima parte di persone che hanno commesso un reato penale, che andranno, sì, andranno colpite, prima accertate, colpite penalmente dalla magistratura e poi conseguentemente anche dalle altre autorità, tra cui il consorzio Grana Padano. Ecco, mi sembra si faccia fare una domanda, Berni, che prego. È questa. Allora, posto ovviamente che parliamo di 7.000 forme su 4 milioni e mezzo all'anno di forme, 4.800.000 di forme di Grana Padano commercializzate. La domanda riguarda la possibilità di estensione di questa cosa, perché da quel che ho capito, certo, io la aflatossina si crea in situazioni, come dire, si diffonde particolarmente in situazioni climatiche particolari, come, certo, è stata quella dell'estate scorsa. Certo. Questo può voler dire che di questo latte ne circola un po' di più di quel che crediamo e che la cosa possa non essere limitata al Bresciano, perché non è che solo nel Bresciano si produce ovviamente il Grana Padano. Ovviamente. Lei che dice su questo? Dico che ha ragione lei, che la cosa è avvenuta nel Bresciano perché la denuncia è partita dal Bresciano, da quella che lei ha ricordato adesso, cioè la segnalazione di Ambrosi e a dire il vero anche della centrale del latte di Brescia, e quindi è partita da qua. Questo ha messo in moto un ulteriore approfondimento del sistema dei controlli, perché il latte consegnato dalla stalla nella cisterna, quando la cisterna arriva nel caseificio, che faccia grana, che faccia altri formaggi, deve obbligatoriamente essere analizzata. E se il latte della cisterna è fuori norma, fuori 50, deve essere distrutto. Evidentemente le stalle che hanno consegnato questo latte confidavano nell'effetto diluizione, sì, che c'è stato, perché il latte quando è arrivato nella cisterna, e quindi il latte della stalla A mescolato con altre 10 stalle che invece erano a posto, non hanno fatto sì che il latte della cisterna andasse fuori limite, e questo ha indotto il caseificio a non saperlo, a non saperlo sostanzialmente. E senta Berni, per chiudere in 10 secondi veramente, ha l'impressione che non sia finita qua la cosa? Io prima di tutto ho la sicurezza che mai è andato e mai andrà un grammo di grana padano sulle tavole dei consumatori che abbia dei dubbi sanitari, assolutamente. Secondo, ritengo che il problema bresciano possa essere capitato anche in altre province, perché penso che un numero minimo di stalle disinvolte o lestofanti non siano tutte concentrate nel bresciano, ma sono un numero esiguo che verranno duramente colpiti e bloccati a vantaggio delle migliaia di altre stalle che sono tutte ligie, oneste e a posto. Grazie a Stefano Berni, direttore generale del consorzio Grana Padano, e buongiorno e benvenuto a Daniele Baglione, il sindaco di Gattinara, provincia di Vercelli. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo letto la sua storia oggi riportata dalla stampa. Lei ha messo in piedi una cosa che è stato chiamato il furbometro. Insomma, forse non so quanto sia corretta, per così dire, la definizione. Comunque, se vuoi accedere ai servizi del comune e se ti ritieni povero, prima devi tagliare determinate spese. La faccio proprio brutale, ma è così. Cioè, se hai l'Apple TV, se fumi un pacchetto di sigarette al giorno e spendi quindi 1.500 euro all'anno, io l'asilo gratis non te lo do. Sì, più o meno la definizione è giusta, ma è giusto anche il termine furbometro, perché serviva a stanare i furbi. Noi, come sapete bene, come enti locali siamo sempre più soggetti a tagli, quindi le risorse economiche da destinare in generale ai servizi sono sempre meno, e quindi anche i servizi sociali. Quindi bisogna aiutare solo le persone che hanno veramente bisogno, e ce ne sono tante, però non aiutando chi invece fa veramente il furbo. Come fare a stanarlo? Ci siamo inventati il furbometro, perché il sistema che normalmente si utilizza, che è il sistema ISEE, era per la maggior parte delle volte aggirato. Il furbometro invece consente, che cos'è? È un insieme di domande che vengono fatte alle persone che appunto chiedono di accedere ai contributi sociali del comune, un insieme di domande che analizzano lo stile di vita della persona e della famiglia di riferimento. Per esempio appunto gli si chiede: hai l'abbonamento alla Pay TV? Fumi le sigarette? Quante macchine hai? Che cilindrata hanno? Vai in vacanza? E tutta una serie di domande di questo tipo che ci consentono di analizzare la sua storia abituale, la sua storia familiare. Posto che possono anche mentire eventualmente. Assolutamente sì. Ovviamente si parla. È vero, mi scusi, è vero che Gattinara ha 8.400 abitanti, quindi se uno vi dice che non fuma, in realtà fuma, secondo me lo beccate in qualche modo, però. Sì, questo è vero, però è anche vero che è un sistema replicabile anche in realtà molto più importanti, perché non sono domande a caso, ma sono domande studiate sulla base appunto di uno schema elaborato insieme al mio assessore al bilancio, che prevedono degli incroci di dati sulla base dei quali, nel momento in cui uno ti dà delle dichiarazioni non veritiere, tu riesci a beccarlo, nel senso che per esempio ci sono personaggi che hanno detto che consumavano 5.000 euro di benzina all'anno ed evidentemente avevano un reddito sotto quella dichiarazione, evidentemente quello lo becchi immediatamente. In altri casi è evidente che se tu mi dichiari che hai appunto 5-6.000 euro di reddito all'anno, ma hai l'abbonamento alla PTV in vacanza due volte l'anno, probabilmente i tuoi redditi non sono soltanto quelli che dichiari, ma o lavori in nero o altri ti aiutano. Questo è una cosa che va fatta emergere. Da quanto l'avete varato questo furbometro? L'abbiamo varato da circa 2 anni nel comune di Gattinara. E quanto ci risparmiate in sostanza? Ah, moltissimo, perché innanzitutto chi veramente veniva aiutato senza averne il diritto non ha più presentato domanda, quindi un buon 20% di domande che normalmente venivano fatte non sono più state fatte. L'altra parte, anche qui circa su una percentuale del 20%, viene bloccata all'ingresso, cioè incrociando i dati si verifica che le persone di questo tipo non hanno diritto a ricevere contributi, quindi vengono respinte le domande di accesso, perché se tu fumi un pacchetto di sigarette al giorno, quindi consumi 5 euro al giorno per 300 giorni, fa circa 1.500 euro l'anno di sigarette. Certo. Ovviamente è una tua libera scelta, oltre a farti un po' male alla salute, consumi delle risorse che dici di non avere a disposizione. Quindi preferisco aiutare chi non ha da mangiare piuttosto che chi va in vacanza e fuma una sigaretta. Insomma, questo è il senso di questo provvedimento. La ringrazio, grazie a Daniele Baglione, sindaco di Gattinara, provincia di Vercelli. Arrivano messaggi via SMS e WhatsApp che fanno i complimenti per questa iniziativa, chissà se è veramente replicabile. Intanto noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa tra un attimo, e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo di questa vicenda che arriva dalla Brianza, dove ci sono due persone, un'italiana e suo marito, un cittadino marocchino, che sarebbero andati in Siria a combattere a fianco dell'ISIS. E poi ci soffermeremo sulla scuola. Sono arrivati, è stato firmato il decreto, sono arrivati 200 milioni per il merito degli insegnanti, per premiare il merito degli insegnanti, ma ci sono alcune scuole che non sono d'accordo e dicono: no, noi non formiamo nemmeno il comitato di valutazione che questi soldi li deve assegnare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Rapidamente i nostri titoli: per allerta terrorismo sono stati chiusi il consolato a Istanbul e l'ambasciata ad Ankara della Germania nel giorno del Consiglio europeo sui migranti. Roma tocca a Torino, la Lega strappa con Berlusconi anche nella città della Mole e lo ha fatto anche Fratelli d'Italia. Di pochi istanti fa la Corte d'Appello di Milano ha condannato per Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri a 1 anno e 2 mesi di carcere per il caso MediaTrade. La spesa pubblica è stata tagliata per 25 miliardi di euro, difficile andare oltre, lo dice il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Parte questa sera lo sciopero dei sindacati di base, l'impatto soprattutto per ferrovie e trasporto locale. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Nelle ore scorse il Ministero dell'Istruzione ha firmato il decreto del quale tanto si è parlato, che di fatto assegna e stanzia i 200 milioni di euro che nella scuola, parliamo del Ministero dell'Istruzione, devono andare agli istituti per premiare i docenti che si ritengono meritevoli. Saranno in media 23.000 euro per ogni scuola. Si conta di premiare il 10% del corpo docente dei singoli istituti, ma succede questo: che in molte scuole non sono stati ancora eletti 5 membri dei comitati di valutazione che devono fissare i criteri in base ai quali scegliere i prof meritevoli. C'è ancora di più: ci sono degli istituti che si stanno letteralmente rifiutando di creare questi comitati di valutazione. Uno di questi istituti è il liceo Enriquez di Livorno. Abbiamo in linea con noi una docente che è Patrizia Nesti. La saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Mi spiega perché? Perché le dico, non è immediatamente comprensibile come mai non si voglia neanche creare il comitato di valutazione. Dunque, a chiunque abbia seguito con attenzione la protesta molto radicale che c'è stata l'anno scorso contro la buona scuola, questo concetto può essere più chiaro, però conviene comunque rinfrescarlo. È stato uno dei punti su cui si è sviluppata la protesta, perché è uno dei punti caratterizzanti della legge 107, la buona scuola. Questo comitato di valutazione è un organismo che dovrebbe elaborare i criteri per andare a riconoscere economicamente non il lavoro svolto, il lavoro svolto ovviamente oltre ai compiti già previsti dalla funzione, ma il merito. Sì. Ora, cioè la qualità di questo lavoro. La qualità del lavoro, ma sì, non del lavoro eccedente, del lavoro in genere. Quindi nella scuola esiste già un salario accessorio che va a riconoscere, sì, il lavoro svolto effettivamente, quello che viene svolto per attività, chiaro, di progetti, chiaro, per commissioni di lavoro, eccetera. Questo invece premio dovrebbe andare a riconoscere la qualità del lavoro indipendentemente dal lavoro vivo. Cioè dovrebbe dire quest'anno tu sei stato un docente. Sei stato un docente migliore, bravo, e quindi ti do qualche soldo in più. Che qualche soldo in più. Ora, noi abbastanza lineare, cioè Nesti, da questo punto di vista lei sarà d'accordo che è un buon principio, no? È un buon principio se ci fossero altri principi di accompagnamento. Il fatto è che questo principio non lo riteniamo negativo e lo abbiamo respinto, perché lo riteniamo effettivamente un insulto rispetto a quello che si sta muovendo nella scuola, vale a dire non si trovano fondi per rinnovare un contratto che è bloccato da quasi 10 anni, si sta parlando di soldi, quindi di istituire un premio in soldi, mentre abbiamo un contratto che è bloccato da quasi 10 anni con tutti gli avanzamenti di carriera che sono bloccati. Abbiamo il fondo di istituto, quello che prevede di andare a retribuire il lavoro vivo, che è stato azzerato, ci sono investimenti che mancano, fin troppo ovvio dirlo, sulle strutture, la sicurezza, e quindi a fronte di tutti questi soldi che mancano, però Nesti, mi scusi, però Nesti, per un 10% meritevole sulla base delle aspettative del governo e del ministero, cioè sulle base delle aspettative dei presidi, perché il comitato di valutazione dovrebbe dare dei criteri di ordine generale e poi il preside individuale. E poi il preside li applica, il dirigente scolastico li applica. Di valutazione non individua nominativi. Quindi non siamo in sintonia con questo tipo di premialità, perché siamo per una erogazione di fondi laddove i fondi servono effettivamente per far andare avanti. Però mi scusi, le posso dire una cosa, Nesti? Però è uno stimolo al lavoro una cosa di questo genere, uno stimolo anche al miglioramento della qualità del proprio lavoro, perché non ci vedo il problema. Che è rivolto al 10% non ci sembra uno stimolo. La situazione della scuola si regge su un sistema di cooperazione e di collaborazione. Il lavoro nella scuola c'è, deve essere riconosciuto quello che c'è. Non si devono andare a inventare criteri per Il 10% vuol dire, cosa vuol dire? Vuol dire che si premia un 10% che si ritiene migliore. E, ripeto, non è corretto questo, cioè premiare il merito? Ma con quale assunto si può presumere che non sia meritevole il 100% ma lo siano solamente il 10%? Sulla base dei criteri che deve stabilire il comitato di valutazione, che però nel caso della vostra scuola non c'è. Non c'è. E se questi criteri sono talmente larghi che non ci rientra il 10% ma il 100%? Perché devono essere dei criteri selettivi che vanno a individuare un 10%? Mi faccia capire una cosa, per chiudere perché devo dare la linea al traffico, certo. e via dicendo, per chiudere. Ma quindi questi, ipotizziamo che arrivino 23.000 euro alla sua scuola, sì. Lei li distribuirebbe a tutti gli insegnanti? Allora, i 23.000 euro non devono arrivare sul merito, devono arrivare sul fondo d'istituto e devono servire per tutte le esigenze della scuola, semplicemente questo. La protesta si basa su una richiesta. Su una richiesta, ho capito. Spera che naturalmente noi eleggeremo il comitato di valutazione in fine anno. Ah, lo farete alla fine. No, lo faremo esclusivamente per validare l'anno di prova dei neoimmessi. Mm. Dopodiché non avrà altri mandati. La ringrazio, sì. Grazie a Patrizia Nesti. Prego. Docente del liceo Enriquez di Livorno. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.